I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Un altro record del Nasdaq e la borsa che continua a volare. Molti si chiedono quando finirà questo rally impazzito delle borse americane, con al seguito le borse europee. La differenza dal passato è che non sono le banche a trainare la volata, ma sono soprattutto i titoli tecnologici. Sì, la riscoperta di quei titoli internet che alla fine degli anni 90 provocarono l'esplosione della prima grande bolla finanziaria e preparò i presupposti di quella che nel 2007 fu la vera grande crisi finanziaria, quella che era la crisi di Lehman Brothers. Qual è la differenza col passato? Che mentre prima erano soprattutto i titoli dei semiconduttori, i chip, la Motorola e poi soprattutto i titoli del software a far vedere un futuro radioso per la new economy, questa volta sono i titoli dei social network, Facebook, Twitter e così via, tutti questi altri nomi il cui incremento di prezzo triplicato, addirittura quadruplicato rispetto al debutto, fa pensare che per gli investitori è proprio la socialità sul web quella che è il futuro dell'internet economy. In realtà bisogna fare molta attenzione, prima la Federal Reserve, poi molti analisti hanno messo in guardia dell'esuberanza irrazionale che si era vista alla fine degli anni 90. Che fare dunque? Moderazione. La corsa di fatto è stata un po' impazzita. Il Nasdaq in questo momento ha guadagnato quasi il 297% rispetto al minimo del 2009 e si appresta con i titoli tecnologici a mettere in cassa un altro rialzo. È la bolla? È presto per dirlo, ma è bene fare attenzione che dalla Grecia, dall'Ucraina o da qualche altra parte del mondo non venga quella spilla che fa esplodere la speculazione finanziaria. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Diciamo la verità, non c'è, forse non ci sarà mai il default greco, ma c'è il semi-default del ministro dell'economia greca, l'eccentrico Varoufakis. Il premier Tsipras lo ha commissariato cambiando la formazione del pool dei negoziatori per conto di Atene in vista della partita finale con la UE e con i creditori internazionali. Oggi il nuovo team è guidato dal vice ministro delle relazioni internazionali Euclid Tsakalotos e Varoufakis resta nel team ma è assai depotenziato nel suo ruolo. Il vice ministro Tsakalotos è stato educato ad Oxford e sembra avere un profilo assai più adatto a trattare con i rappresentanti dei creditori e con i suoi omologhi dell'Eurogruppo. Posso sembrare cose di poco conto, ma i rapporti personali, se poi sono guidati da un'eccessiva carica ideologica, come è stato nel caso del ministro dell'economia greca, diventano decisivi per far progredire o meno i rapporti diplomatici ed economici tra i paesi. E non è un caso che già oggi i rumors dei mercati segnalano una maggiore disponibilità della Grecia a rivedere la lista delle riforme, così come hanno chiesto da tempo i creditori internazionali e la Troica. Del resto anche i sondaggi danno al 72% dei greci quanti vogliono che il paese resti nell'euro e al 71% quanti vorrebbero un rapido accordo con i creditori. Varoufakis, che è un economista greco-australiano e insegna all'Università del Texas, ha affidato una breve nota la sua replica al Burrascusoro Gruppo di venerdì. Sono unanimi nel loro odio contro di me e io do il benvenuto al loro odio. È una citazione da Roosevelt che difendeva il piano del New Deal. Una citazione molto vicina al mio animo, ha detto il ministro, e alla realtà di questi giorni. E meno male che ha citato Roosevelt perché il succo assomiglia tanto a un'altra frase celebre, a quel molti nemici, molto onore, che certo sarebbe parecchio politicamente scorretto per casa Varoufakis. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.